si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. In nome della nostra profonda, sincera e sentita vocazione di radio di servizio, questa mattina daremo delle utilissime indicazioni su come mantenere ancora vivo il vostro rapporto di coppia, dato che la primavera si avvicina e la primavera, si sa, è insidiosa e malandrina e mette a repentaglio ogni unione. La trasmissione è rivolta naturalmente alle signore, è una trasmissione spiacevole, una trasmissione maschilista, una trasmissione che in sé potrebbe sembrare addirittura schifosa. Noi daremo oggi alle donne delle istruzioni su quello che gli uomini amano che loro si dica, si faccia e si immagini. Insomma, piccole fuggevoli informazioni di servizio su come tenervi ancora attaccati quegli omaccioni che avete vicino, ammesso che la cosa a voi possa interessare. Esistono delle facilissime e molto semplici da mettere in pratica regole per cui una qualsiasi donna può facilmente tenersi ancora al guinzaglio l'uomo che vuole avere accanto. E, come ho già detto, si tratta di piccolissime informazioni di servizio riguardo a ciò che gli uomini vogliono che loro si dica, si dia, si faccia. Che cosa stai pensando? Frase inutile. Se lui avesse voglia di parlare e di spiegarti a che cosa sta pensando, lo farebbe. Ma tu sei curiosa come una gallina e vuoi a tutti i costi entrare nella sua vita intima. La realtà è che lui, quando è silente, non sta pensando a niente e tu, con la tua domanda intrusiva, lo innervosisci. Lui, pur di farla finita, cerca disperatamente qualche cosa che avrebbe potuto stare pensando, ma se dice la prima cosa che gli viene in mente: quanti abitanti avrà la Cina, esclusi i neonati? Se così facesse, tu, donna, diventeresti una belva. Allora, nel 90% dei casi, messo alle strette, lui crede di fare il furbetto sparando: stavo pensando a quel meraviglioso tramonto sulla sciara di Stromboli. Troppo tardi si rende conto che non è mai stato con te a Stromboli e tu non gliela perdoni. Ne nasce una rissa di proporzioni bibliche causata solo dal fatto che tu non ti fai gli affari tuoi. Ricordati la massima fondamentale tramandata dagli avi: quando un uomo non parla, non pensa. Questo è uno dei segreti più profondi che abbiamo sempre tenuto ben sigillato nel circolo ristretto delle cose che ci si dicono tra uomini, che questa mattina viene rivelato. Quando un uomo non parla, non pensa. Quindi non vi illudete, non pensate che la risposta che vi dà alle vostre pressioni sia dettata da un filo logico dei suoi pensieri. Ma perché questa mattina stiamo cominciando a darvi queste massime di servizio, queste indispensabili perle di saggezza per mantenere ancora vivace, se possibile non frantumare, il vostro rapporto? Perché una persona ha impegnato parte consistente della sua vita a mettere insieme, rischiando naturalmente di essere messo a sua volta al muro, queste massime di saggezza. Costui è Claudio Sabelli Fioretti. Claudio, buongiorno. Ciao. Ecco, ciao. È nuovamente possibile acquistare in edizione aggiornata e integrata il suo Dimmi, Dammi, Fammi, editore Aliberti, che è il manuale che tu hai fatto, Claudio, per tutte le donne, però facendoti nemici sia gli uomini che le donne, perché tutte ti hanno detto potevi farti i fatti propri, vero? Esatto. E io devo dire che una cosa rispetto a quello che hai detto tu prima è che ritengo ancora incredibile che poi ci siano delle donne che vogliono trattenere i loro uomini. Cioè, io non tratterrei assolutamente nulla. Non c'è nulla di veramente entusiasmante negli uomini che valga la pena di essere tratti. Ma poi sai, uno si affeziona anche agli animali, che devo dirti, esatto, alla fine. Questo è vero, questa hai ragione. Questo manuale, hai ragione, è come dire, come far felice il tuo cocker, ecco. Però sempre di cocker trattasi, ecco. Detto questo, ci sono delle piccole piccoli trucchi, insomma, che se proprio volete fare, calcolate che l'uomo è questo, cioè non pensate che l'uomo sia diverso, ecco. Questa scoperta che io ho fatto, che l'uomo quando non parla non pensa, io non so se tu l'avessi già fatta. L'abbiamo sempre saputo, ma devo dire, chi ha rivelato questo segreto, ma gliene incoglierà. Era la nostra il nostro più imperscrutabile universo, la roccaforte della nostra intimità. Sto pensando, per favore, basta appoggiare lo sguardo perduto nell'infinito, basta appoggiare la mano sul mento pensoso e quindi improvvisamente, devo lasciare la linea, una breaking news, pare molto più importante, tra un istante. Breaking news. La dichiarazione proprio in questo momento del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. Ringrazio Dario Franceschini e Gianni Letta per l'offerta di presiedere la RAI, azienda patrimonio del Paese, dice, un incarico di grande prestigio per il quale mi ero reso disponibile. Dopo attenta riflessione ho però deciso di restare dove sono a fare solo il giornalista. Ecco, non so se Ferruccio De Bortoli ha sentito le tue massime, ci siamo tenuti anche il direttore, siamo tutti contenti e ne siamo felici. Riprendiamo con Claudio Sabelli Fioretti. Claudio, eccoci, no, la breaking news ci ha colto, noi parlavamo di trattenere uomini, ha dichiarato Ferruccio De Bortoli che resta al Sole 24 Ore, noi siamo veramente contenti di questo, ma occupiamoci delle signore di non tenersi vicino uomini di ben altro spessore, noi stiamo parlando di uomini cocker, uomini che altrimenti non saprebbero l'umanità cosa farsene, però ahimè, visto che tu sei buono, sei gentile e ti occupi anche del genere femminile, dai queste piccole massime di come sgamare il vostro uomo pensatore o colui che pensa di poter vi illudere che ha un universo di pensieri così profondo e insondabile che quando si prende l'abbiocco in realtà non è abbiocco. 800240024, cominciate a intervenire e con Claudio Sabelli Fioretti diamo altre massime di saggezza se mai voi foste interessati ad essere saggi in questa direzione. Mi ami? I casi sono due. Primo, lui ti ama e pensa di dimostrartelo tutti i giorni con la sua fedeltà, con la sua dedizione, con la sua presenza. Secondo, lui non ti ama e non ha il coraggio di dirtelo. Sentirselo chiedere lo fa impazzire perché lo mette di fronte alla sua vigliaccheria. La frase «No, non ti amo» non uscirà mai dalla sua bocca codarda. Lui non ti ama, ma terrà la cosa nascosta a tutti e soprattutto a te. E quando tu gli chiederai per l'ennesima volta «Mi ami?» Lui aggrotterà le sopracciglia, farà un lungo sospiro e con lo sguardo perso nel vuoto. Neanche fosse Humphrey Bogart dirà: il problema è male impostato, la vera questione è che cos'è l'amore in realtà. Quando lui con grande sprezzo del pericolo dirà finalmente questa frase: non farti trascinare nella convinzione che il problema sia male impostato, il problema è impostato benissimo. Se sei una donna intelligente, fai la tua valigetta e torna dalla mamma. 800240024. Anche voi avete qualcosa da aggiungere al prontuario di Claudio Sabelli Fioretti, delle cose da dire, da non dire o quelle in realtà da dire, perché la grande illusione che il rapporto di coppia sia indissolubile e sia inattaccabile, sia una grande favola a vivere in due, possa continuare. Ecco Claudio, questa parola mi ami non mi ami, ma esistono ancora persone secondo te in età della ragione che chiedono al proprio partner mi ami? Esistono, Miami è una coltellata praticamente, io la ritengo una delle frasi più agghiaccianti che si possano dire, lo dice anche l'uomo. Tra l'altro è il peggior deterrente sessuale che possa esistere, è impossibile avere un minimo di pulsione erotica per una persona che ti dice Miami. Infatti, secondo me, quando sai che le donne usano invece quelle perifrasi incredibili per dire che non hanno voglia di farlo, no? Tipo ho il mal di testa, sono indisposta o cose di questo genere, ecco, se invece usassero questa tranquillamente ti chiedono mi ami e c'è anche il momento di riflessione, un momento di pausa. Sì, assolutamente, ma tu hai detto un'altra cosa molto giusta prima, cioè che questo spirito di servizio che mi ha portato a scrivere questo libertino, no? questo libruccio, ad essere quasi martire, Claudio, perché penso che se già sento io il disgusto delle mie ascoltatrici negli auricolari della cuffia, tu avrai rischiato la vita per aver scritto questa cosa. Assolutamente, vedrai che arriveranno delle fatte tremende, ma la cosa incredibile è come, sai quando uno dice in politica si dice no ma lui non è obiettivo e quello là, l'altro dice no mi hanno attaccato sia da destra che da sinistra, quindi vuol dire che sono obiettivo, ecco qua gli insulti sono arrivati da tutti praticamente, cioè non uomini, donne, gay, tutti quanti, non c'è essere umano che non abbia letto, che abbia letto questo libro e che non abbia manifestato il suo disgusto nei miei confronti. Beh, sai, scardinare quelle che sono le placide maniere di mantenere viva un'illusione o perlomeno trincerarsi dietro dei luoghi comuni che in fondo permettono di stiracchiare il quotidiano è una responsabilità molto grossa. Ecco, questa qua è il mi amo. In un momento in cui il mi ami o non mi ami sembra che ci sia questa glorificazione dell'amore come una condizione necessaria, indispensabile, e se non c'è amore non c'è nulla. Venerdì ho avuto Battiato, è stata un'apoteosi dell'amore, dell'amore che muove tutte le cose del mondo. Noi siamo innamorati e siamo felici che esista questo senso così profondo dell'amore, ma l'amore non può essere una formula che si risveglia con una parola, mi ami, ma chi può rispondere sì o no, perché, in quale ragione? L'amare dovrebbe essere una dimostrazione quotidiana e continua attraverso dei comportamenti. Quello che mi meraviglia è che ancora si dia valore a una risposta. Ecco, una persona che ti domanda mi ami, se io rispondo sì, ti amo più della mia vita, la faccio contenta, ma è sufficiente su te una risposta del genere per far contenta una persona? No, assolutamente no, ma pensa al contrario, ancora peggio, tu non mi ami. Cioè, il rimprovero, quello lì è la cosa ancora più bella, no? È tipico delle donne, bisogna dire. L'uomo, in linea di massima, se ne frega. Quando una persona viene da te e dice tu non mi ami, e tu lo guardi e dici, ma allora che volemo fa, no? No, come se l'amore fosse una sorta di pillola che si prende, che improvvisamente fa passare il disamore, non so, qualcosa del genere. Andiamo avanti perché mi interessa sottoporre altre pagine del tuo prontuario al nostro pubblico, che può intervenire all'800240024, ma trovo un po' di perplessità. Non vi sentite anche voi offuscati dal luogo comune che rappresenta una cortina fumogena nella limpidezza del vostro rapporto? Anche voi non mettete a punto quotidiane tecniche, quotidiane strategie per aggirare queste trappole terrificanti come la domanda se si ama o se non si ama? Beh, fatemelo sapere all'800240024. Ti piace come sono vestita? Mi metto il tailleur rosso oppure i pantaloni grigi? Se lui risponde è solo per educazione oppure per paura. Infatti per lui l'unica cosa importante è che tu vesta bene e che sia gradevole. Della differenza tra il tailleur rosso e i pantaloni grigi, invece, non gliene frega nulla, tanto meno 5 minuti prima di uscire di casa. Quando una donna chiede al suo uomo se è meglio mettere il tailleur rosso o i pantaloni grigi, ha una sola idea in testa: mettersi il tubino nero e dimostrare, qualunque sia la risposta, che lui non capisce nulla di moda e di eleganza. Sconsiglio vivamente la risposta del vero uomo. La risposta del vero uomo: cara, mettiti quello che ti pare, a me piaci nuda, crea uno scompenso ormonale nella donna, la quale si tufferà nell'armadio 4 stagioni e non ne uscirà prima di 45 minuti, quando la puntualità, alla quale lui tiene moltissimo, sarà un ricordo d'infanzia. Anche qui, Claudio, hai sfiorato uno dei punti di maggior scaturigine di frattura definitiva nel rapporto di coppia, la definizione e il giudizio sull'abito. Una donna che domanda come sto, cosa mi sono messa, di solito già ti legge negli occhi il disgusto o la non condivisione di quel particolare abbigliamento. L'ideale sarebbe non domandarlo mai, accontentarsi di quello che uno addosso o cercare di interpretare dei segni impalpabili di accettazione o di disaccettazione del proprio vestito. Eppure degli aspetti così formali, così poco necessari alla tenuta della coppia, diventano, ahimè, dei macigni se posti male, vero? Sì, io ti dirò che ritengo più il problema più drammatico il problema del ritardo che non quello dell'estetico. Nel momento in cui ci sono delle dinamiche quando si esce, per cui l'uomo è sempre pigo fino all'ultimo momento, poi a un certo punto gli viene un'accelerazione dell'uscita, no? Mentre il contrario rispetto alla donna, che la donna mentre quando si sta per uscire trova sempre delle cose, tipo quello del cambiarsi, tipo quello del cambiare la borsetta, cambiare tutte le cose che sono da una borsa all'altra, eccetera. Questo qui crea una tensione incredibile quando si esce. È la tensione da pianerottolo, quando l'uomo è già con le chiavi in mano fuori del pianerottolo, la donna è ancora dentro. Poi sai, Claudio, io sto pensando adesso, ci dirà chi ascolta, guarda questi due anziani cialtroni parlano di cose talmente banali con i problemi che ci sono, ma invece riflettevo, queste cose non vengono da osservazioni superficiali o da sentito dire, sono piccoli frammenti dell'esperienza di ognuno di noi, penso, perché queste cose si sono vissute di solito e rappresentano quelle tante piccoli motivi di nevrosi quotidiana che poi portano alle grandi distruzioni della propria lucidità. Quindi non è proprio tutto banale quello che stiamo dicendo, secondo me. No, allora, se vogliamo fare anche i seri ogni tanto, che ci sta anche bene, tu calcola che questo qui è sì è la sovrapposizione dell'esperienza quotidiana mia, di altri, di con una ricerca sul campo fatta con psicologi, andrologi, tutti gli ideologi possibili immaginabili, antropologi, che mi hanno detto quali erano i grossi problemi della coppia. Tu infatti hai premesso, quando hai fatto questo libro, in una delle cinque prefazioni che hai messo, 4-5 prefazioni... Una prefazione non si nega a nessuno. No, che in realtà è uno studio serio, cioè hai chiesto supporto a tutti, diciamo, coloro che avevano supporti scientifici, perché queste che sembrano delle... piccole facezze, delle sconcezze dette tra scapoloni o tra uomini quando se ne vanno la sera al bar, però affondano le radici in qualcosa di serio, di profondo, che mina quotidianamente il rapporto di coppia. Esatto, sì. Questo qui, infatti, all'inizio, questa qui era una... tutto questo nasce da un'inchiesta, da un dossier che avevo fatto per un settimanale femminile, sentendo una ventina di esperti, e tutti quanti mi dicevano, con toni però un po' scientifici, quindi noiosi come al solito, delle cose molto sagge, molto giuste, che derivavano dalla loro esperienza medica o psicologica. E io ho cercato semplicemente di sovrapporgli, di trovargli tutte queste piccole cose che alla fine, come tutte le cose tragiche, sono comiche e quindi sono un po' più divertenti. Il libro, se tu l'hai letto e vedo che lo stai facendo leggere, è divertente, insomma, no? Adesso non dovrei dirlo io, ma insomma, cioè, vuole essere divertente. Ecco, sentiamo il primo volontario della sofferenza, Gaetano. Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Lei ad aggiungere delle postille a quanto stiamo dicendo, aggiunga la sua esperienza personale, così anche lei si farà molti amici. Beh, la mia esperienza personale è identica a quella del libro, di cui ho sentito, non l'ho letto, ma ho sentito, che leggerò presto, ma che ho sentito delle parti, specialmente riguardo al Miami, che è una cosa che dopo 22 anni di matrimonio, parlo della mia esperienza ovviamente, cioè, mi tormenta ancora. Cioè ancora e, le chiede sua moglie Miami? Sì, esatto. Cioè, no, ma questo può essere visto in chiave positiva, però effettivamente poi dall'altro lato io insomma, ho la mia vita, ho le mie cose. Ecco, lei come si organizza per rispondere a questa domanda che in realtà non avrebbe risposta? Onestamente io sono molto cinico, dico sì, ti amo tantissimo, cioè, no, oramai non faccio più fatica, cioè questo è il punto, è la sua fazione. Sì, in questo caso diciamo che mentire è la maniera migliore per mantenere l'armonia. Per me assolutamente sì, è una questione di equilibrio e comunque questo libro secondo me solleva proprio una cosa, ma tra l'altro poi questa è la mia esperienza, ma tantissime persone che conosco ovviamente ne fanno l'uso quotidiano di questo termine, di questa bugia. Voglio essere corretto. Non perché l'amore sia qualcosa che si deteriora, che scompare, e cinicamente è molto più facile dire che l'amore non c'è, bisogna mentire. Perché il termine amore diventa indecifrabile, insondabile, irraccontabile dopo tanti anni che si sta assieme. Non si può più dire mi ami, perché mi ami con quel tipo di domanda presuppone una risposta che corrisponde al periodo della passione, ai primi tempi in cui si sta assieme, che non può più esserci quella cosa lì. Il mi ami, a cui bisognerebbe rispondere dopo 10 anni, 20 anni di convivenza, è di tutt'altro tipo. Non bisognerebbe usare il verbo amare, ma usare altri verbi. O meglio, la vera prova d'amore sarebbe non domandarlo mai. Ah, bello, domandarlo, non domandare mai mi ami, significherebbe veramente aver rispetto alla persona che si è accanto. Melog 2.0. Non mi porti mai a teatro. Della serie... Stai sempre a guardare la partita. Non andiamo mai da mia sorella. Non mi hai regalato nemmeno una rosa. Un crescendo rossiniano in vetta al quale troviamo il non plus ultra del lamento. L'Everest della lagna. Russi. È la sindrome di Santippe. Quando la Santippe che è in te si scatena, il lagnometro di lui entra in azione e segna allarme rosso. A te non importa nulla di andare al cinema. Odi tua sorella e sei allergica alle rose. Il tuo intento è solo quello di immettere un gigantesco senso di colpa nel suo animo. Inutilmente. Lui ormai è vaccinato per la sindrome di Santippe. Il senso di colpa ce la mette tutta, insiste, usa ogni genere di trucchetti per riuscire ad entrare nell'animo di un uomo. Ma fallisce miseramente. L'uomo ha l'antivirus incorporato. Ci stanno chiedendo in molti il titolo del manuale di saggezza di cui stiamo parlando questa mattina, di cui cerchiamo integrazione da parte del pubblico. È Dimmi, Dammi, Fammi di Claudio Sabelli Fioretti, editore Aliberti, che è una sorta di manuale, avete sentito, che spiega quintessenza a quelli che sono i piccoli passaggi fastidiosi della vita di coppia, tra cui quest'ultimo, quello di insinuare continui sensi di colpa. Il senso di colpa è l'arma più veloce, è il veleno più sottile, è la maniera più rapida per eliminare la resistenza alla persona che si ha accanto. Claudio. Sì, salve. Io Nicoletti, volevo dissentire un attimo da quello che lei ha detto poco fa, quando ritiene che sia una forma di rispetto per chi abbiamo accanto il non domandare mai mi ami. Ecco, io non sono d'accordo, perché credo invece che formulare questa domanda così in maniera diretta e immediata sia invece un richiamare alla propria responsabilità, quindi all'impegno che magari abbiamo assunto il giorno in cui siamo andati ad altare, il giorno in cui ci siamo incontrati la prima volta, in cui ci siamo resi conto che la nostra accettazione reciproca è qualcosa che va al di là della semplice... Sì, ma che c'entra con l'amore e l'impegno, scusi? No, appunto, sto dicendo questo, che l'amore è qualcosa che va oltre tutto questo. Non è che l'impegno presuppone l'amore. Io posso impegnarmi davanti anche 7 patrieterni e 80 giudici di pace, ma se l'amore non c'è, l'impegno è un buon proposito, ma no, non è che sì. È proprio questo il problema. Cioè, io dico che il punto iniziale è c'è un fraintendimento. Inizialmente ci si accetta semplicemente, l'amore è qualcosa che viene dopo, è qualcosa che va costruito momento per momento, giorno dopo giorno. Ecco, questa è la cosa che bisogna capire, perché è ovvio che due si sposano non perché si amano, ma perché imparano ad amarsi, perché si sono accettati al momento. Sì, e poi evidentemente perché ci si lascia a un certo punto? Perché evidentemente perché si trova un'altra persona che ci piace di più. Come, scusi? Perché si trova un'altra persona che ci piace di più, di solito ci si lascia per questo. Ma senta, volevo soltanto concludere con un'ultima cosa che mi è venuta in mente. Qualche giorno fa mi è capitato di leggere nel Vangelo una domanda. Gesù Cristo che chiede a Pietro: mi ami tu? Ecco, non so se può avere la stessa... Amore è un termine talmente lato nelle accezioni che può comportare che non basta un'esistenza per definirle tutte. Noi cerchiamo di rozzamente dividere. L'amore di cui si parla nelle scritture è un amore che naturalmente è su un altro piano, è una profonda immedesimazione nella figura appunto della divinità. L'amore di cui si parla come accettazione quotidiana nel rapporto coniugale è una forma di reciproco impegno, e siamo d'accordo. L'amore a cui bisognerebbe rispondere alla domanda mi ami è l'amore che è l'irrazionale forza della passione e che in quel momento non si sente più così viva, se no non si domanderebbe. Chi è preso dal vortice della passione non ha bisogno di domandare mi ami, ci sta dentro, ne è preso dalla radice dei propri capelli alla punta dell'unghia del proprio allo, cioè figuriamoci se ha bisogno di domandarlo. Quando uno domanda è come dire accendi la luce che ci vedo poco per leggere, ma poi ognuno la pensa come vuole. Deborah, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma io chiamo per il semplice fatto che mi sono sentita costretta a chiamare per difendere un pochino questo povero martire, autore del libro, perché secondo me dice delle verità stratosferiche. Ma tutti i profeti e tutti i martiri dicono verità, se no perché subirebbero il martirio? Infatti, in quanto donna, mi sono sentita proprio costretta. E nulla, io la mia testimonianza è che praticamente sono sposata, sono giovane, ho 24 anni, sono sposata da quasi 4 anni con mio marito e il nostro rapporto è vivo, va bene, anche perché lui, quasi quotidianamente mi spiattella le verità dell'universo maschile. Abbiamo affrontato... Cioè, sta rivelando tutti i nostri segreti suo marito? Sì, abbiamo... Dobbiamo eliminarlo, scusi. Claudio Sabelli Fioretti. È pericolosissimo. No, abbiamo affrontato, per dire, il tema del ti amo, insomma, mi ha fatto presente, guarda, ti amo, non serve, insomma, mi ha detto un pochino ciò che avete riassunto anche voi. Le ha detto anche, posso amare te e anche un'altra persona perché siete complementari? No, questo no. Ma quanto arriverà, Claudio, questo? Non lo so, questo io spero che lui non lo dica mai, cioè il silenzio in questi casi è assolutamente... Lo spero anch'io, certo. Ma a proposito del ti amo, Gianluca, tu hai detto una cosa bellissima prima, cioè il ti amo cambia al massimo, se proprio uno lo vuole dire, cambia secondo gli anni. Sì, no? Ma l'ho letto in un manuale che ho comprato alla stazione, non è roba mia. Come il vino, no? Cioè c'è il ti amo del invecchiato, il ti amo fresco, giovane, il ti amo robusto, cioè un ti amo di 10 anni è una cosa diversa da un ti amo... Del primo giorno che ti vidi. Io ormai la mia età conosco solo il ti amo che mi mette le ali ai piedi, però non so se è un caso personale. Comunque Deborah, secondo me, è coraggiosa, cioè affrontare quotidianamente questi temi è logorante. Ma Deborah, non è che lei sta mettendo dei semi di autodistruzione nel suo rapporto di coppia? Perché guardi che veramente è un'operazione da martire quella che sta facendo lei. No, ma io penso che due persone, se non si parlano, cioè anch'io comunque spiattello, non sempre, perché la donna è diversa. E qual è la sua zona d'ombra, quella che lei non spiattella con suo marito? No, magari per dire, se un no di mio marito è un no, un no mio può essere un no, ma forse se tu devi capire che io voglio dirti di sì, questo, cioè... Lui è più... Vabbè, avete un sacco di tempo a disposizione, beati voi, siamo veramente invidiosi e consapevoli che in fondo, essendo voi giovani, forse ancora potreste soltanto scrivere delle pagine nuove a questo manuale. Tu non mi ascolti. È vero, lui spesso non ti ascolta. E sai perché? Perché tu parli al femminile. Quando parli tu non dai informazioni, tu comunichi sentimenti ed emozioni. Tu usi parole per occupare spazio, per impiegare tempo, per colpire direttamente il cuore senza passare per il cervello. Lui no. Dov'è la notizia? Si chiede lui come fosse il direttore del New York Times. Il tuo tipo di conversazione lui proprio non lo capisce. Soprattutto non capisce come tu abbia fatto ad accorgerti che non ti stava ascoltando. Tu, come tutte le donne, hai bisogno di un traduttore simultaneo. Lui, come tutti gli uomini, è per la chiarezza e la trasparenza. Vuole una carbonara? Dice... Voglio una carbonara. Le parole che pronuncia corrispondono esattamente a quello che vuole. Tu no, tu vuoi essere capita. E quindi dice cose a lettura multipla. Sei enigmistica. Morale, lui si chiude ancor più in se stesso. Da quel momento tu parlerai ininterrottamente per ore senza accorgerti che lui ha installato il sordo automatico. Quello del sordo automatico, devo dire che è un accessorio utilissimo e indispensabile che ci si accorge di avere soltanto in età matura. Quando si è giovani ancora si pensa di poter capire, interpretare, essere ricettivi. A un certo punto ci si rende conto che inserire il sordo automatico è una sorta di sistema di autodifesa, ci preserva dal logorio del rapporto di coppia. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire riportando un attimo il discorso quando parlavate del vestire, del consiglio sul vestire. Io per esperienza personale sono una persona che ritengo che stare con una donna vuol dire non accendere il sordo automatico, perché capisco che cosa voglia dire. È un po' come dire vabbè, basta, ok, metto la protezione, non vengo più toccato nei sentimenti oppure non mi arrabbio più. Però questo significa anche non perdere una battaglia, perché ovviamente non sempre sono battaglie da combattere, però vuol dire anche non capirsi a vicenda. Io penso che quando una persona non si riesce a tirare fuori il meglio, è ovvio che poi ne abbiamo le conseguenze, cioè il peggio. Cioè che poi ci tira fuori qualcun altro il meglio, quello è il problema, se non ci tiriamo fuori. Infatti, nel vestire, per esempio, gli uomini si dividono a chi importa, secondo me, a chi importa e a chi non importa. Il problema è sempre un'arma a doppio taglio, ovvero se ti importa di come si veste, lei comincia a pensare di essere magari criticata poi in ambito pubblico, perché dici se a lui gli piace come sono o non gli piace devo stare attenta a cosa mettermi. Che è una cosa pessima, è sadica, inutile criticare una persona a cui si sta assieme di fronte agli altri, questo è riprovevole. No, non di fronte agli altri, sto dicendo che magari se l'uomo critica o comunque gli consiglia alla donna cosa mettere, perché secondo lui con quella cosa è più bella che con un'altra, è ovvio che poi di conseguenza lei si sente sempre più sotto l'occhio all'attenzione, dice sarò giusta per lui. È d'accordo Rita, buongiorno. Rita, buongiorno. Buongiorno. Ma d'accordo, fino a un certo punto. Io in realtà volevo semplicemente dire, un po' come la signora che mi ha preceduta, Toscana forse, che mi sono sentita quasi in dovere di, sentendo la trasmissione, di chiamarvi, perché sono rimeravigliata molto di questa insorgenza che uomini, donne di tutti i generi hanno un po' fatto qui nei confronti di quello che hanno letto, ecco, di questo saggio di Sabelli, che non ho ancora letto peraltro, ma a questo punto mi appresterò a fare. Trovo tutto simpaticamente quello che è stato detto, quantomeno, ecco, ripeto, da voi molto vero, ironicamente vero, è un po' così. Secondo lei, signora Marita, esiste delitto più terrificante che dire ironicamente la verità? Beh, è una bella domanda. Io credo che spesso sia una domanda, mi ami, sia una domanda mal posta. A volte, e soprattutto noi donne, credo, necessitiamo di queste piccole insicurezze, ci assalgono e non hanno pressoché, credo, niente a che vedere con la domanda in questione, insomma, con l'amore, nascono da altro, e quindi il nostro uomo, che è lì, cerchiamo, ecco, la rassicurazione. Non credo assolutamente nel senso dell'amore, ecco, non è una rassicurazione. È una rassicurazione verbale di un malessere che è posto altrove, ma non vogliamo fare psicanalisi di basso conio, perché non è proprio il nostro mestiere. Bene, Claudio Sabelli Fioretti, sei arrivato alla parte costruttiva che tutti ci chiedono, ma allora cosa mai bisogna fare, bisogna dire? Le frasi che secondo te una donna dovrebbe dire a un uomo, questo parte del tuo formulario, nasce da un tuo desiderio riposto, di quello che piacerebbe a te sentirti dire, oppure fa sempre capo al pool di esperti che tu hai consultato? Fa capo al pool di esperti, nel senso che ne spero proprio che la mia vita non sia stato questo inferno che viene descritto. Questo è un insieme di tutto quello che può succedere a un uomo e a una donna. Però sai come dicono anche i grandi scrittori, no? Anche se scrivono la biografia di Nerone, dicono ma c'è sempre un po' di me, no? C'è sempre un po' di autobiografia. Quindi alcuni esempi ovviamente sono portati dalla mia infingardaggine, dalla mia cialtronaggine e dagli scontri che posso aver avuto. Però sai, guarda, in ragione del mettersi in gioco, in fondo si dà forza e credibilità a quello che si scrive. Le solite vestali del retto pensiero mi stanno dicendo questa mattina state confezionando luoghi comuni, ma sono i luoghi comuni che sono capaci di rovinarci una giornata, di modificare il nostro pensiero, di dare un senso nefasto a una nostra espressione professionale. La nostra vita è fatta del combattere quotidiano con questi luoghi comuni, e a noi piacerebbe tanto sentirci dire certe cose. Sei bravo nel tuo lavoro. In ufficio ci sono grani a non finire. I dipendenti sono dei fannulloni. I superiori sono arroganti. A lui nessuno fa mai un complimento. E allora, faglielo tu questo complimento, benedetta donna. Basta una frase a fargli tornare il buon umore. Mi piacerebbe lavorare con te. Sei un grande professionista. Che ci vuole? Lui ricambierà sicuramente, sperticandosi in lodi del tuo pollo al curry, una pietanza che perfino il tuo mastino napoletano, dopo 10 giorni di digiuno, guarda con disgusto. Sottolinea lo splendido accoppiamento giacca-cravatta che gli dona l'aspetto del perfetto manager. Lui dirà che tu accavalli le gambe in maniera più sexy di Sharon Stone. L'atmosfera si farà orrendamente mielosa. La casa si riempirà di ipocrisia e di falsità. A pensarci bene, forse è meglio se tu gli dici quello che pensi, che non capisci perché continuino a dargli ancora uno stipendio. Devo dire che l'ambito professionale è quello in cui è più facile sentirsi fragili, sentirsi indifesi, quello in cui si chiede più l'aiuto della persona che abbiamo vicino. Però Claudio, farai un domani anche lo sforzo di fare un manuale contrapposto in cui diciamo quello che abbiamo intuito nella nostra vita che alle donne piacerebbe sentirsi dire? Sai che mi è stato chiesto proprio di farlo e io ho aperto il file materialmente nel mio computer e non sono riuscito a scriverlo, perché tutto questo passa attraverso l'ipocrisia, passa attraverso il politicamente corretto, no? Quindi il sottotitolo è quello, tutte le cose che gli uomini non hanno il coraggio di dire, no? E quindi io mi faccio portavoce delle loro rimostranze. Le donne hanno tutto il coraggio di dirlo, le donne non c'è bisogno che uno scriva un libro sulle cose che non hanno il coraggio di dire, le donne hanno il coraggio di dirlo, quindi non veniva fuori niente sostanzialmente, veniva fuori paccottiglia. A proposito del luogo comune, sai che questo è il luogo comune, è la critica più forte che viene fatta, ma cioè, la vita, forse l'hai già detto tu, ma insomma, la vita è fatta di luoghi comuni. Guarda, no? La critica al luogo comunismo, ahimè, non è ancora estinta, non c'è muro che cadrà, che farà cadere i luogo comunisti, come suffragette scandalizzate ogni volta che uno dice qualcosa che non ha la parvenza di profondità assoluta. Io amo moltissimo il luogo comune, galleggio nel luogo comune, mi pascio di luoghi comuni perché attraverso i luoghi comuni capisco l'essenza della mia esistenza, però sai, è difficile farlo capire. Lo so, secondo me è una critica banale e facile, è un luogo comune la critica al luogo comune, se vogliamo proprio menarcela. È come sai quando uno dice no, è un problema di cultura, cioè quelle frasi che non vogliono dire niente, cioè sì, d'accordo, sono luoghi comuni, e allora, cioè tu hai mai, io volevo chiedere a Deborah o a Rita, ma che mi sembravano ben attrezzate anche loro, cioè, ma tu hai mai detto a tuo marito, al tuo uomo, sei peggio di tua madre? Secondo me non c'è donna al mondo che non abbia detto all'uomo sei peggio di tua madre. Ecco, quella è una frase tremenda, diabolica, è proprio un assassino a mente fredda, che credo che veramente tutte quante, è un luogo comune. Un luogo comune che, come tutti i luoghi comuni, affonda le sue radici in delle plausibili verità molte volte, in molti casi, ma non spalmabili naturalmente su tutta l'umanità. Valeria, buongiorno. Buongiorno. Spenga la radio. Mi sento. Sì, ecco. Io... Prego, la sto... Scusi, non so se sono in linea oppure no. Dunque, lei deve farci, spero di no almeno, esposizione del santino del suo matrimonio felice da 20 anni. No, trovo che il matrimonio felice da 20 anni è semplicemente un rispetto degli spazi altrui, nel senso che trovo che è giusto non mettere il naso né nel lavoro né negli hobby o nel tempo libero del marito, trovo che sono degli spazi che uno ha, che si deve godere e che devono rimanere suoi, punto e basta. Poi se ti vuole coinvolgere lo fa lui automaticamente. Al termine hobby si può dare un'accezione vastissima naturalmente. Ah sì, certo, io dico il riferimento per esempio a mio marito, che ha la passione di andare a fare tutti i weekend motocross, cioè per me glielo lascio tutto, non sto a dirgli ah no, questo weekend stai con me, o di fare, tanto ogni tanto succede che poi ogni tanto sta là a casa, non è che è proprio categorico. E lei cosa fa quando suo marito va in motocicletta? Non lo so, leggo, vado al museo, non lo so. Non lo vado so. A vedere degli amici, dipende. Avete trovato il vostro equilibrio? Volta. Lui va a sgropparsi in motocicletta, lei va a vedere degli amici, va al museo e legge, quindi è una perfetta formula. Ma voi non avete bisogno del manuale Sabelli Fioretti, avete già risolto il problema della vita felice di coppia. Luca? Ah, eccomi, sì, sono io, buongiorno. Credo di essere io, giusto? Non lo so, è un suo problema, non posso aiutarla. No, dunque, a proposito di luoghi comuni, a me per la prima volta mi trovo in disaccordo, nel senso che mi sembra che stare a dire che chi dice ti amo è quasi sempre la donna, invece che l'uomo... No, lo dicono anche gli uomini, quando se la fanno sotto, che vedono improvvisamente mutare la donna che hanno vicino, diventare bellissima e curata, dice ma tu mi ami, è una domanda... Perché l'unica cosa che mi viene da dire è che c'è una dicotomia che io non condivido, insomma, mi è capitato più volte nel mio matrimonio, che non so se definire felice o meno, comunque credo sufficientemente, di chiederle io, sicuramente quando ero in difficoltà. A me sembra che l'errore dell'impostazione del libro, che anch'io mi appresterò a leggere per quello che ho capito oggi, sia di, come dire, partire in una differenza così radicale in un luogo che a me non sembra quello corretto, piuttosto mi sembra un problema, per esempio, della, come anche questi uomini bamboccioni che hanno bisogno della domenica, di andare sempre via. c'è qualcosa che non mi convince, ecco, a me il discorso. Ma mi sembra che in quest'ultimo caso, mi scusi, mi sembra un bisogno condiviso anche dalla moglie, perché lui va via perché anche lei se ne va per conto suo, quindi è... Ecco, per esempio, forse il problema è che anche la donna dovrebbe andare via, bisognerebbe non, che non fosse solo l'uomo che va via la domenica. Cioè, in tutto quello che non mi sembra corretto è pensare che c'è il comportamento della donna e il comportamento dell'uomo. Ecco. E invece la tesi, mi sembra di capire, di Claudio Sabelli Fioretti, che non vuole essere assolutamente politicamente corretta né democraticamente orientata, è di dire: io ho fatto un libro per gli uomini, il libro per le donne lo faccia qualcun altro. Giusto, Claudio? Poi chiudiamo. Ah, assolutamente, assolutamente. Ma comunque, secondo me, l'ascoltatore adesso dice una cosa audace, nel senso che non c'è differenza tra uomini e donne, credo che sia l'unico che lo sostiene, nel senso che tutte le persone che io ho sentito mi hanno confermato che il problema è proprio quello, che sono due esseri sostanzialmente diversi, che parlano in maniera diversa, si comportano in maniera diversa e si incontrano, fortunatamente. Se non fosse così, caro Claudio, noi non saremmo nemmeno qui a parlare, ma chissà dove saremmo. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.